Avanti, pagliacci! Avanti, pagliacci! Avanti, pagliacci con le braghe lunghe, vestiti di stracci, pagliacci alti e bassi, grassi e secchi, uno coi piedi piatti e il cappello calato sugli orecchi, un pagliaccio che sotto una doccia cammina beato per innaffiare un fiore, si trova tutto allagato, un buffone a piedi scalzi con alle dita due palloncini, un pagliaccio che suona la polca col naso a pallini, pagliacci che sfoggiano pennacchi, pagliacci con teiere per cappelli e uno con la coda di spazzole e pennelli, un pagliaccio equilibrista su una ruota traballante e 17 pagliacci su una macchina rombante, due burloni in gonnella saltellanti inseguono un birbante su trampoli giganti, un pagliaccio triste e trasognato, un pagliaccio col pancione illuminato, come se in fretta un pagliaccio a scacciare ogni suo cruccio, fate largo all'allegria, avanti pagliacci!